l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, 8 minuti dopo le 12 siamo in diretta, mi ricollego subito al promo che abbiamo appena ascoltato, anche noi saremo in diretta da Trento sabato prossimo con una puntata speciale live dell'altra Europa dal Festival dell'Economia, quindi segnatevi anche questo tra gli appuntamenti, vi aspettiamo lì in Piazza Pasi anche per chiacchierare prima, dopo e durante il programma. L'altra Europa, un format in collaborazione con il network Euronet Plus, network europeo, tante lingue diverse di tanti paesi diversi per raccontare la stessa Europa. Noi lo facciamo dal nostro punto di vista, che è quello delle storie, delle persone, ma non solo, cerchiamo anche l'Europa delle possibilità e delle opportunità. At Federico Taddia oppure at Euronet Plus R24 per trovarci anche su Facebook e Twitter, le nostre bacheche digitali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Oggi staremo ai confini dell'Europa, oggi parleremo di legalità perché Palermo chiama Italia diventerà un Palermo chiama Europa, ci saremo anche noi per celebrare l'anniversario della strage di Capaci e poi altre voci molto giovani come quella di Francesco Ross, 18 anni, che ha scritto la sua Costituzione europea. A 18 anni frequenta l'ultimo anno del liceo scientifico Torricelli di Maniago e siamo in provincia di Pordenone. Un anno fa ha ideato la Costituzione europea a partire dai principali articoli delle costituzioni italiana, tedesca, spagnola, francese e portoghese, non so, una metacostituzione per mettere insieme il meglio delle costituzioni degli stati membri. Costituzione europea che ha pubblicato e che sta avendo tantissimo successo. Francesco è qua con noi. Ciao Francesco, buon sabato. Buongiorno, buon sabato. Allora, partiamo dall'inizio. Come ti è venuta l'idea di scrivere una Costituzione europea? Ma allora, l'idea di un'Europa unita, secondo me, è sempre stata ritenuta un'idea positiva, no? Però certo. Ho detto, l'Europa ora è unita, sì, però non ha proprio una vera unione, perché l'Europa tuttora viene definita come un'organizzazione internazionale, no? Un po' atipica, sì, però non viene mai ritenuta come un'unica grande voce anche proprio a livello internazionale. E così mi sono detto, per rendere veramente un'Europa unita effettivamente, diciamo, uso un nome un po' ironico, ma forse anche no, di creare questi Stati Uniti d'Europa, no? Certo. Cioè una vera e propria unione, ci deve essere per forza una Costituzione. E così mi sono detto di riunire il meglio dei vari stati membri e conglobarli in quella che potrebbe essere una costituzione ipotetica. Ma tu hai fatto una sorta di copia e incolla degli articoli più belli o no? Li hai anche rielaborati? No, li ho anche rielaborati secondo la mia visione. E qual è? La possiamo riassumere? Cioè, quali sono i punti salienti di questa tua Costituzione? Sì, allora, inizio subito dicendole che la mia Costituzione comprende 79 articoli. Sì. Le cito per esempio il primo, in cui si dice che lo scopo dell'Unione Europea è la felicità comune, al primo comma. Il suo governo è istituito per garantire all'uomo tutti i suoi diritti imprescindibili. Certo. Perché ovviamente secondo me uno Stato, qualsiasi esso sia, deve avere come base la felicità dei suoi cittadini, ovviamente questo prima di tutto. Poi come altri articoli vorrei citarle il secondo articolo, dove appunto si dice questi diritti sono l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la dignità e la proprietà. L'articolo 3, in cui parlo anche di revisione della Costituzione, in cui se ovviamente si sa che i tempi cambiano i tempi, cambiano le tecnologie, cambiano anche i pensieri, e quindi è ovvio che magari se l'Europa, mettiamo caso, diventi veramente un'Europa unita effettiva, mettiamo nel 2016, sì, ovviamente nel 2040 ci saranno contesti politici ed economici diversi, e quindi magari ci sarà anche la necessità di rivedere alcune leggi e adattarle ai tempi che saranno. E quindi nell'articolo 3 si parla di revisione, però ovviamente che sia a favore della collettività e non del singolo, appunto per evitare di dare potere a troppe poche persone, no? Il cosiddetto potere arresti il potere. Francesco, ti fermo un attimo, scusa. Ma tu hai 18 anni, sei giovanissimo, come fai a essere così esperto, così appassionato? È atipica, se appare almeno atipica come atipico come interesse. Come ti sei preparato? Nel senso, come mai veramente questo interesse così profondo, così strutturato? Ma guardi, allora, io fin da piccolo ho avuto la passione per la politica e per l'economia, specialmente partendo dal concetto di giustizia, no? Io mi ricordo anche quando eravamo in classe, fino alle elementari, alle medie, in cui a volte venivo anche un po' contestato perché mi lamentavo del fatto che nel nostro paese non ci fosse giustizia, cioè che ci ritrovassimo dei delinquenti anche gravi, con gravi crimini alle spalle, e i quali venivano sempre a volte anche elogiati dalle istituzioni, venivano addirittura alcuni non andavano in carcere, poi c'era anche tutto il contesto di truffe e tutte queste cose qua, e mi facevano arrabbiare, no? E molte volte dibattevo in classe su questi temi, e da lì ho iniziato piano piano ad appassionarmi e anche con la voglia di impegnarmi più concretamente su questi temi. E questa Costituzione europea non è solo un esercizio di stile, tu l'hai pubblicata e tu hai iniziato a farla girare da un annetto, hai ricevuto il plauso dell'ex presidente Giorgio Napolitano, il plauso di Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, del capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano, di Matteo Renzi, che recentemente ti ha scritto, di Papa Francesco addirittura. Stai diventando un megafono di una voce nuova di questa Europa? Ma guardi, io spero veramente che quello che ho scritto non rimanga solo lo scritto di un semplice adolescente, però possa veramente in futuro essere un vero e proprio progetto, anche perché ci ritroviamo in una situazione grave di crisi non solo economica ma anche politica, e quindi spero veramente che il mio progetto di trasparenza, soprattutto, possa veramente diventare un progetto concreto e realizzabile. Per chi volesse conoscere o leggere questa Costituzione, cosa deve fare? Dove la si trova? La si trova online? Allora, diciamo che io prevalentemente le copie le distribuisco quando faccio le presentazioni, okay, perché mi piace fare molto questi meeting proprio a tu per tu, e quindi sì, prevalentemente farò così. Può essere che in futuro la carichi anche online, però questo è ancora tutto in progettazione. Ok, complimenti Francesco, in bocca al lupo, insomma, vediamo un po' cosa succederà della tua Costituzione europea. Noi siamo qua, quindi bene, felici di poterne dare notizia. Ciao, buon sabato. Grazie altrettanto. Salutiamo Francesco Rosso, ora ci fermiamo. Un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Strumento interattivo per i giovani europei. Siete curiosi di conoscere meglio le abitudini di vita dei vostri coetanei nel resto d'Europa? Di sapere in quanti hanno un lavoro, utilizzano i social network, se sono sposati, hanno figli o vivono ancora con i genitori? Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, ha lanciato Young Europeans, un sito ideato principalmente per i giovani dai 16 ai 29 anni. Visitandolo, risponderete a domande sotto forma di quiz sulla vita dei giovani europei in 4 diversi settori: famiglia, lavoro, tempo libero, studi e internet. E potrete scoprire tutti i dati e le informazioni riguardanti i vostri coetanei europei. Per saperne di più, cercate Young Europeans sul sito ec.europa.eu/Eurostat. L'altra Europa. Sonorità robotiche per introdurre il prossimo argomento. Si chiama DARPA ed è la sua prima edizione, Robotics Challenge, una competizione internazionale fra squadre di robotici, lanciata nel settembre del 2012 dall'Agenzia per la Ricerca Avanzata del Dipartimento di Difesa statunitense. L'obiettivo è quello di definire standard tecnologici di robot da impiegare in situazioni di disastro naturale oppure di disastri causati dall'uomo. La la competizione si terrà vicino a Los Angeles il prossimo 5 e 6 giugno. Quella è la notizia. La notizia è che tra i robot in gara ce n'è uno anche italianissimo, si chiama Walkman, è stato ideato e realizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, istituto di eccellenza, in collaborazione con il Centro Ricerca e Piaggio di Pisa, all'interno di un progetto finanziato dalla Commissione Europea. Per conoscere meglio DARPO e soprattutto il robot italiano che parteciperà a questa competizione, c'è con noi Roberto Cingolani, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Ciao Roberto, benvenuto e buon sabato. Buon sabato anche a voi. Allora, vi state preparando a questo challenge, a questa competizione, ma al di là della competizione, l'importanza di esserci, che significato ha per voi essere appunto tra gli enti invitati al DARPA? Allora, non voglio suonare decubertiano, diciamo, qui l'importante non è partecipare, ma non dico vincere, almeno andare molto bene, però devo dire che in questo caso il fatto di esserci è di per sé una cosa eccezionale. Siamo l'unico robot europeo che diciamo sancisce un primato continentale di una tecnologia italiana, e siamo una ventina di concorrenti, quindi ci sono giapponesi, taiwanesi, coreani, americani e noi, e tra l'altro siamo stati invitati direttamente a partecipare a questa finale. Molte delle altre squadre hanno dovuto fare i trials delle eliminatorie, perché loro ci hanno scoperto, il DARPA ci ha scoperto in Giappone in una conferenza un paio d'anni fa, ha visto uno dei nostri robot e quindi ci ha invitato a partecipare direttamente alla finale, però con una sfida nella sfida. Avevamo solo 2 anni per produrre robot, gli altri ci stavano già lavorando da molto tempo, e quindi siamo riusciti a completare il robot. Abbiamo fatto una macchina molto innovativa, quella che noi portiamo è una macchina assolutamente innovativa con prestazioni eccezionali, e quindi contentissimi di esserci, buone speranze e comunque già un grande risultato. Roberto, chi è Walkman? Ce lo presenti? Sì, Walkman è un bellissimo robot, e quando dico bellissimo rivendico anche un po' di Italian design, perché nella rudezza della meccanica avanzata ha anche un design spettacolare. È alto poco meno di 1,90 m, pesa più di un quintale, alimentato da un pacco di batterie molto sofisticato, con una tecnologia nuovissima, perché adotta dei motori che hanno delle potenze elevatissime e integrano dentro il motore tutti i controlli di posizione, forza, eccetera, che consentono sostanzialmente di progettare una struttura e poi in ogni giunto, per esempio un gomito, un ginocchio, una caviglia, di mettere questi motori come se fossero dei pezzi Lego, no? Sì. Questo ci consente di avere una progettazione modulare fantastica, velocissima, e poi anche a livello di controlli questo consente di controllarlo rapidamente, perché i motori hanno tutti lo stesso software, no? Quindi uno fa una struttura a blocchi ed è più facile da gestire. Walkman guida la macchina, sa aprire e chiudere una valvola pneumatica, apre una porta, cammina anche su terreni molto disagiati, e se cade per terra può rialzarsi perché è completamente articolato al bacino, quindi è in grado di ruotare il torso e comunque di rialzarsi. Ha delle mani molto molto efficaci, simili a quelle dell'essere umano, insomma sembra essere un robot pronto ad aiutare gli umani in futuro. Perché quello insomma è l'obiettivo, no? Avere un aiuto soprattutto in situazioni di disastri naturali o no? Dove è pericoloso per l'uomo è chiaro che il robot diventa il compagno sostitutivo, quindi noi abbiamo una chiara filosofia, tutta la nostra ricerca in ambito robotico, umanoide, non anche i nostri animaloidi, i quadrupedi, sono pensati per aiutare l'essere umano in casa oppure nei luoghi disagiati, nei luoghi pericolosi, al limite in futuro anche per eventuali applicazioni aerospaziali. Ti faccio una domanda banale, ma è un robot italiano, però di fatto europeo, che lingua parla? Cioè, come si comunica con lui? I nostri robot normalmente utilizzano dei programmi di speech recognition che sono in inglese, perché un po' questo è lo standard. Tieni conto che nel nostro istituto ci sono scienziati da più di 50 nazioni, quindi c'è anche un po' una prassi interna che devi decidere una lingua che vada bene per tutti, e si parla inglese, no? Per cui alla fine la tecnologia utilizza l'inglese, che è un po' la piattaforma più semplice, più diffusa per tutto. Certo, per te probabilmente lo scenario europeo è anche limitante, visto che, come hai detto, avete ricercatori da 50 nazioni di tutto il mondo. Cosa vuol dire però oggi fare ricerca ed essere tra l'eccellenza a livello europeo? L'Europa ci crede nella ricerca scientifica? Ma Direi che l'Europa ci crede e abbiamo delle nazioni molto molto forti, non è solo la Germania, l'Olanda ha delle punte di eccellenza assolute, il Regno Unito, l'Italia, la Francia, anche la Spagna hanno delle ottime realtà. L'Europa è un continente colto, non bisogna mai dimenticarlo, dove la cultura ha una tradizione molto profonda. Certamente ci sono dei paesi emergenti molto veloci, molto aggressivi, penso alla Corea, però credo che ancora oggi la formazione dei giovani europei sia una formazione molto solida. Non bisogna sedersi sugli allori, cioè quello che è chiaro è che se noi continuiamo a pensare che la tradizione ci salverà per molto tempo sbagliamo, no? Perché i paesi emergenti sono aggressivi, sono anche molto veloci, cioè la differenza a un certo punto viene compensata e poi si gareggia alla pari, e in parte sta già succedendo. Però sono sempre molto fiducioso, basta vedere i programmi ERC, gli certo. Individual Research Grant europei, mi sembra che insomma la qualità delle persone sia eccezionale, sono tutti ragazzi europei o ragazzi che rientrano da altri continenti in Europa, mi pare stia facendo un buon lavoro a livello europeo. Grazie davvero Roberto, in bocca al lupo per il DARPA, a te e a tutto il tuo team, e insomma poi siamo curiosi anche poi di conoscere i risultati, saremo qua. Ciao, buon sabato, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Europostit. European Funding Guide, la guida per le borse di studio in Europa. Vorreste godere del sostegno economico europeo allo studio, ma non sapete come orientarvi tra le mille possibilità? European Funding Guide è un'organizzazione no profit con sede in Germania che mira a portare trasparenza nel mondo dei finanziamenti dell'Unione Europea. Molti sono infatti gli studenti che potrebbero ottenere fondi, ma che per scarsa informazione non inoltrano richieste. Con più di 12.000 opportunità e 28 criteri di filtro, European Funding Guide è il più grande portale di finanziamento di studio all'interno dell'Unione Europea. Il progetto è cofinanziato dalla Commissione e ha già vinto numerosi premi internazionali. Per saperne di più, european-funding-guide.eu. Just expanding to overstand the cry as well as a laugh. Don't think I'm lying to fake another me. One is too much. Sono oltre 5.000 atleti, campioni disabili e non disabili, italiani ed europei, provengono da 12 nazioni diverse, e sono partecipano a 12 discipline diverse in 7 città in contemporanea. Sono i numeri della prima giornata dello sport integrato promossa dall'Unione Europea, organizzata dal CSEN, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI, una grande festa dello sport, quella che si sta tenendo oggi in Italia, dello sport integrato, vuol dire lo sport per tutti, lo sport che include invece che escludere. Ci sono veramente tantissime iniziative, una di quelle giornate che ti fa fare pace con lo sport bello, lo sport sano. www.europeanday.eu, questo è il sito ufficiale della giornata europea dello sport integrato. Tra le tante storie ne abbiamo scelta una ed è quella che si sta vivendo a Torino. Con noi c'è Francesco Baggio. Ciao Francesco. E buongiorno Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ed è tantissimo che sognavo di dire questa cosa. Sono molto contento di parlarvi. Volevo farti una piccolissima correzione, scusa se inizio così. Certo. Sono 12 le città italiane e potrete vedere tutte le varie manifestazioni che si stanno svolgendo su un canale YouTube, appunto YouTube Live Edis 2015. Edis è l'acronimo inglese di Giornata Europea dello Sport Integrato. Sport integrato, bella parola, vuol dire sport che ci sono sia disabili che gente non disabile. Mm-hmm. E poi anche all'interno della disabilità, mille disabilità e quindi mille mondi diversi. Mm-hmm. Tu ti occupi a Torino di tennis da tavolo, di ping pong, giusto? Sì, esatto. Mm-hmm. Effettivamente il tennis tavolo è il nome ufficiale, poi se uno dice ping pong lo capiscono tutti, è di facile e immediata comprensione. Sì, Torino siamo una bella realtà, il tennis tavolo Torino, la palestra integrata, quindi gente di gioca in piedi, in serie A2 e tutte le altre serie. E poi c'è una sezione disabili che sta crescendo, da 2-3 anni me ne occupo io come allenatore e ogni tanto faccio anche qualche torneo perché mi piace mantenermi in forma e migliorarmi, insieme a mia moglie che ringrazio tantissimo perché è Carmela che mi sta dando una grossa mano in questa giornata un po' frenetica perché c'è mille cose da fare. Immagino, infatti tu insomma sei allenatore di, appunto, sei allenatore di tennis tavolo, anche tu insomma hai avuto un incidente, sei in carrozzina, ma dacci un esempio pratico, prendiamo appunto il ping pong, il tuo sport, quali sono le regole che lo rendono uno sport integrato dove tutti possono giocare con tutti? Allora, il tennis tavolo è uno tra i primi sport che la Federazione Italiana Tennis Tavolo, FITET, ha integrato al suo interno la parte paraolimpica. Sì. Quindi è uno degli sport che si sta muovendo verso uno dei primi sport che si sta muovendo verso l'integrazione. Come si gioca? Si può giocare assieme, il tavolo è lo stesso, le racchette sono le stesse, le regole sono le stesse, tranne una piccola eccezione per il servizio, quando un normodotato gioca contro un ragazzo in carrozzina e la pallina non può uscire dai due lati esterni del tavolo. Okay. Questo non vuol dire che non si possono fare servizi corti, anzi tra noi in carrozzina si gioca moltissimo sul corto perché è il punto potrebbe essere il punto debole dell'avversario. Certo. Però ci si allena a fare anche questo. Okay. Questa è l'unica, l'out appunto, che la pallina non può uscire lateralmente, è l'unica regola in più se uno gioca con una persona in carrozzina, ma poi si può giocare, ecco. Oggi per esempio una signora mi diceva: ma io vorrei lasciare, una signora normodotata mi diceva, ma io vorrei lasciare più spazio alle persone disabili perché vorrei lasciar giocare loro. Poi in realtà le ho spiegato, ma quest'oggi è una giornata che tutti dobbiamo divertirci e giocare, non perché uno è disabile e deve giocare di più o di meno, dobbiamo giocare tutti assieme. E poi l'ho vista giocare e si è divertita tantissimo, quindi insomma sono contento della cosa. Insomma, hai sintetizzato quello che è lo spirito di questa giornata. Ricordiamo a Torino, una delle 12 città che aderiscono alla giornata, tutto ciò si tiene al Pala Collegno. Al Pala Collegno, esatto, a Collegno. Sì. E via, è tanto sport per vedere, provare, sperimentare. Ricordiamo ancora qual è il sito per seguire via YouTube tutto? YouTube Live Edis, il canale YouTube Live. Perfetto. Edis 2015. Perfetto, questa è la prima giornata dello sport integrato promossa dall'Unione Europea. Ciao Francesco, buona giornata, buon ping pong. Altrettanto, buona ciao. Giornata a voi. Ciao, ciao. Adesso in Europostit e ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europostit. Francigena Marathon, camminata non competitiva sulla Francigena. Ti piace fare lunghe camminate e sei appassionato di itinerari culturali? Allora tieniti libero, perché il 31 maggio ad Acqua Pendente si terrà la European Francigena Marathon, la prima maratona sulla via Francigena che ricostruisce l'antico percorso di Sigerico in Italia. Un itinerario di 42 chilometri da percorrere solo ed esclusivamente camminando. La partenza sarà ad Acqua Pendente, cittadina di confine fra Umbria e Toscana. Si attraverseranno alcuni dei suoi tratti più suggestivi, poi si costeggerà la Basilica del Santo Sepolcro. Si proseguirà attraverso stradine di campagna, verso il paese di San Lorenzo Nuovo, fino alla meta finale, la storica cittadina di Montefiascone, in provincia di Viterbo. Per tutti i dettagli e le informazioni, visitate il sito francigenamarathon.it. L'altra Europa. شام لفظ الشام اهتز في خلدي. سوريا 3 سنوات وأكثر من حرب مجنونة أنانية لا منطقية. 3 سنوات دمرت فيها النفوس والقلوب والعقول. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. E ora vi porto davvero ai confini dell'Europa con due esperienze, con due colleghi, con due videomaker che hanno fatto lavori molto molto belli. Il primo è questo viaggio verso i confini dell'Europa e si chiama Borderline, un viaggio in 6 video sulle frontiere europee più usate dai migranti, un reportage a puntate pubblicato sul sito di Internazionale. Con noi c'è uno degli autori, Stefano Liberti. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Stefano, un viaggio in 6 puntate per raccontare i muri, per raccontare i confini, per raccontare la voglia d'Europa e le disperazioni legate a questa voglia d'Europa. Che viaggio è stato? Ma è un viaggio in cui abbiamo scelto alcuni punti che erano i punti focali degli ingressi in Europa, quindi la Turchia, la Bulgaria, il confine di Melilla, l'enclave spagnola in terra africana, Cane Sicilia ovviamente, la città francese di Calais, da cui tutti cercano di arrivare in Inghilterra attraverso il Canale della Manica. E poi anche abbiamo scelto l'aeroporto di Fiumicino, che è una frontiera un po' meno nota, ma dove passa un sacco di gente, dove molta gente non riesce a passare perché viene bloccata e poi respinta verso i luoghi di origine. Quello che abbiamo visto è che sostanzialmente la gran parte delle persone che cercano di entrare in Europa sono persone che fuggono da situazioni gravi, sono per lo più siriani che fuggono dalla guerra e che non hanno altro modo di arrivare da noi che attraversare i confini illegalmente, pagare gli scafisti e spesso essere bloccati, spesso essere anche picchiati dalle polizie dei paesi di transito, e quindi persone che si trovano a fuggire da una guerra e ad affrontare una situazione ancora più grave per cercare di ottenere di arrivare in una situazione migliore. La cosa paradossale è che l'Europa non permette vie di accesso legali e quindi di fatto alimenta anche questo tipo di traffico. Certo. Ma il paradosso della contraddizione è che una volta che queste persone arrivano, appunto i siriani o anche gli eritrei che viaggiano molto su queste rotte, viene riconosciuto loro sempre comunque l'asilo politico, quindi viene riconosciuto che la loro richiesta di protezione è legittima. Mm-hmm. Diciamo nell'ambito di questa contraddizione si misura tutta un po' la schizofrenia della politica europea in materia di immigrazione. Insomma, temi di estrema attualità. Internazionale.it per vedere i vari reportage, l'ultimo, il sesto, uscirà mercoledì 27 maggio. Stefano, prima di salutarci, al di là delle contraddizioni dell'Europa in queste porte, in questi luoghi di confine, in questi pertugi verso nuove vite, ecco lì l'Europa, che Europa hai trovato al di là della burocrazia, che desiderio d'Europa, cioè l'Europa cosa rappresenta per queste persone che bussano disperatamente a questa porta? L'Europa rappresenta un sogno, tutte queste persone quando le incontri fuori dall'Europa, cioè prima di entrare o prima di cercare di entrare, ti raccontano un'Europa che per loro è l'accoglienza, i diritti umani, la nuova vita che si aspettano. E poi la disillusione successiva quando appunto riescono ad entrare, oppure quando riescono ad entrare e rimangono bloccati, come avviene in Bulgaria, per diversi mesi in campi di accoglienza fatiscenti e con l'impossibilità di continuare il loro viaggio perché le leggi europee non consentono poi di andare a richiedere l'asilo in un altro paese. Quindi quello che abbiamo visto noi in tutti questi viaggi sono ragazzi più o meno tra i 20 e i 30 anni che hanno un'idea dell'Europa e che un'idea dell'Europa molto bella, un'idea dell'Europa come sogno, che piano piano tuttavia si disilludono. Mm-hmm. E domandano proprio a noi europei: ma noi abbiamo un'altra idea dell'Europa, perché ci trattate così? Perché non capite che noi stiamo fuggendo una guerra, che noi il nostro paese non c'è più, eppure non volete darci un'altra possibilità? Certo, grazie davvero Stefano, complimenti a te e a tutti i tuoi collaboratori per questo ottimo lavoro. Ciao e buon sabato. Grazie a voi, ciao, ciao. Cambiamo sonorità, cambiamo lingue, ma il viaggio, la migrazione, la speranza ancora il tema del prossimo argomento, anche perché è lui uno degli autori, uno dei partecipanti, una voce che ben conoscete, una voce che queste tematiche le segue quotidianamente. Sto parlando di Giampaolo Musumeci, giornalista, filmmaker, conduttore in estate qui su Radio 24 di Nessuno è Luogo è Lontano. Ciao Giampaolo, bentornato all'Altra Europa. Ciao Federico, buona giornata a voi, a te e agli ascoltatori. Sei uno dei protagonisti di questa mostra multimediale promossa dal CESVI, che è la cooperazione e sviluppo, con il sostegno della Commissione Europea, aperta fino al 24 maggio presso la Cascina Triulza, il padiglione di Expo Milano dedicato alla società civile, con Uganda, Land of Hope. Che cos'è? Cosa hai combinato questa volta? Allora, è stata un'avventura breve ma molto intensa che ho condiviso con Alberto Prina, che è un fotografo, e l'idea era questa, di portare dei ragazzi, dei giovani filmmaker nel mio caso, e dei giovani fotografi nel caso di Alberto, in terra africana, in particolare nel nord dell'Uganda, una terra segnata anche da vicende piuttosto recenti di sangue, Lord Resistance Army di Joseph Kony e la guerra civile, portarli lì, dargli in poche parole due dritte su come si accende una telecamera, come si riprende, come si accende una macchina fotografica e come si fanno le foto, e poi miscelare insieme le nostre competenze e portarli a scoprire i progetti del CESVI, fra gli altri, di agricoltura, resilienza, costruzione strade, acqua, eccetera, eccetera, cioè tutti quei fondamenti per ricostruire una società dopo la guerra. Ed è stata una sfida bella tosta, perché e un po' la prima volta in Africa, un po' la prima volta da mettere una telecamera, ma non sempre, perché alcuni insomma erano anche abbastanza bravini, e la sfida era raccontare l'Africa attraverso gli occhi dei giovani e dargli una mano nel fare questo, insomma, perché non è facilissimo. CESVI.org per tutte le informazioni, giampaolomusumeci.com per conoscere le tante attività di Giampaolo. Tra l'altro, Giampaolo, in questo momento sei in Francia perché è uscito il tuo libro, tradotto in francese, vero? Quello Sì, infatti non so se avete udito da lontano le cornamuse. Sono a Saint-Malo, sulla costa, in Bretagna, c'è questo festival che si chiama Etonnant Voyageur, che è la letteratura di viaggio, e anche se i viaggi che abbiamo raccontato io, Andrea Di Nicola, nel libro sui trafficanti uomini non sono esattamente viaggi di piacere, anzi, come avete sentito prima da Stefano Liberti, io e Stefano spesso incrociamo i nostri passi su quelle rotte, non sono esattamente viaggi piacevoli quelli che raccontiamo, ma ci hanno invitato, il libro è uscito in Francia e quindi con grande piacere siamo qua a presentarlo. Grazie davvero Giampaolo, lo possiamo annunciare, no? Quest'estate torni in onda con Nessun Luogo è Lontano qui da Radio 24, quindi l'attualità internazionale che torna protagonista. Grazie mille. Ciao, buon sabato. Grazie, ciao, ciao. Ciao, anche voi. L'altra Europa. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Palermo chiama Italia, questo è il nome scelto per la manifestazione che si sta tenendo oggi a Palermo e in altre piazze italiane per ricordare la strage di Capaci, la morte di Giovanni Falcone, questo 23 maggio che è diventato un po' la giornata della legalità. Palermo chiama Italia, ma Palermo anche chiama Europa, perché in questi giorni, insieme a tanti ragazzi italiani, ci sono anche giovani provenienti da 10 paesi europei che hanno partecipato a un progetto europeo promosso dalla Fondazione Falcone, la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, finanziato dalla AICEA, un progetto sull'educazione alla cittadinanza, sull'educazione alla legalità. E con noi c'è uno dei ragazzi che ha partecipato, diamo il benvenuto ad Ermal Nazifi, albanese, che fa parte di un'associazione Borderline, credo che sia il nome dell'associazione. Ciao Ermal, benvenuto all'Altra Europa. Ciao. Bene, grazie per l'invito. Come si chiama l'associazione? Scusami che ho perso. Beyond Barriers. Ah ok, no, ho sbagliato proprio associazione allora. Va bene lo stesso. Di cosa vi occupate? Noi lavoriamo con i giovani delle possibilità un po' limitate rispetto ad altre giovani che vengono nella società albanese. Giovani che vengono da certe parti d'Albania che non sono sviluppate, giovani che hanno le disabilità fisiche e mentali. Cerchiamo di integrarli nella società, ma non solo nella società albanese, ma anche proprio in quella europea, tramite scontri, tramite scambi giovanili, attività diverse in tutta l'Europa. Certo. In queste giornate avete partecipato a varie attività, a vari convegni, non abbiamo tanti minuti, però credo che ci sia lo spazio per invece sapere quello che hai vissuto questa mattina e quello che stai vivendo anche in questi minuti. È stata una settimana veramente interessante, abbiamo fatto tante cose importanti, abbiamo visitato l'aula bunker, abbiamo visitato la casa di Peppino Impastato, oggi siamo per giro in Palermo, abbiamo visto tutte le piazze, tutte le attività di tanti giovani italiani e no che facevano tutti questi, ognuno a modo suo faceva come ricordare le storie di Borsellino e di Falcone. Mm-hmm. E questa è una cosa bellissima. Adesso perciò siamo in Teatro Massimo a Palermo, c'è questo teatro fantastico, 10 storie proprio così si chiama, e ci sono dei ragazzi che parlano delle storie vere sulla mafia, quello che è successo veramente. Mm-hmm. Tanta informazione, tanto scambio, tante idee, è una cosa veramente brava. Gli organizzatori fanno un lavoro da complimentare. Palermo, Italia, Tirana, Albania, Europa, c'è un filo comune, la parola legalità, senti, vedi che abbia lo stesso significato ovunque? Senz'altro, specialmente in Albania c'è tanta gente che ci fa questo... comparazione con l'Italia, l'Italia del Sud, dicono che gli albanesi, gli italiani sono simili, anche i problemi di criminalità organizzata sono simili. E il problema della legalità è un problema che oggi è l'ordine del giorno in Albania. Tutti parlano della legalità come la cosa più importante, perché se in legge c'è là, ma non si vede in azione, non si vede proprio in azione, non c'è niente. I diritti umani, le possibilità sono tutte limitate se non c'è la legalità, e così il filo è comune non solo tra Albania e l'Italia, ma tutta l'Europa, tutto il mondo. Mm-hmm. I criminali collaborano, questo devono fare anche i giovani, questo devono fare tutti, devono collaborare per educare, per prevenire che i giovani entrino nella criminalità organizzata. Certo. Albania, Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Italia, Macedonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Romania, questi paesi partecipanti in queste giornate. Qual era l'umore comune? Cioè un umore di rassegnazione, un umore di no, si possono cambiare le cose, un umore di voglia, di rivoluzione culturale proprio. Qual era un po' lo spirito che vi ha accompagnato? Ma un po' di tutto, anche c'erano questi momenti che quando sentivamo queste storie degli omicidi dei mafiosi ci sentivamo senza speranza, ma comunque la speranza c'è, noi ci siamo sentiti anche bene quando abbiamo visto degli esempi positivi di studenti, di giovani qua a Palermo che ogni giorno fanno la lotta contro la mafia. Abbiamo visitato anche questi posti interessantissimi dove si fanno questi business sociali, sì. Dei beni sequestrati alla mafia, così c'è segno vero che si può fare, le cose possono cambiare, le cose si possono prevenire in tutti questi paesi, e così il spirito delle cose possono cambiare c'è. Sta crescendo. Questa era Palermo, chiama Italia, l'Europa risponde grazie anche alla voce, alla testimonianza di Ermal. Ciao Ermal, un grazie davvero a te grazie e a tutti i tuoi colleghi. Ciao, buon ciao. Sabato. E con queste belle parole chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie a Miriam Lucchetti, a Silvia Righini, a Laura Faggine che con me hanno partecipato alla scrittura della puntata. Roberta Frisani oggi in diretta ha giocato con i tasti. Alessandro Longoni invece era in assistenza. Radio24.it è il sito per poter riascoltare la puntata, e come sempre vi consiglio anche di andare nella sezione dell'Altra Europa, lì ci sono i contenuti extra, tra i quali tanti post-it, quindi le tante segnalazioni, le tante dritte utili per la vostra quotidianità europea. L'appuntamento con l'Altra Europa invece a sabato prossimo, vi ricordo ancora, saremo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, il nostro stand sarà in Piazza Pasi, lì vi aspettiamo. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa. In collaborazione con Euronet Plus.